programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci qui finalmente a riprendere la formula tradizionale, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Non ci sono più le mezze stagioni. Quindi da subito preparate i vostri pensieri, le vostre riflessioni, i vostri commenti sui fatti della settimana, perché riprendiamo dopo alcune puntate monografiche, riprendo insieme a voi a commentare, a fare un bilancio un po' delle notizie della settimana. Tra pochissimo ci sarà come sempre un mio opinionista estemporaneo, però non perdiamo i riti, no? Certi rituali. Allora, cos'è che ci conferma ogni volta che non ci sono più le mezze stagioni? Intanto vi dico che, anche se molti non se ne sono accorti, questa è stata l'estate, la sesta estate più calda dal 2000. Qualcuno si lamentava, le piogge, un po' di freschino, eccetera, eccetera. In realtà è luglio che ha alzato un po' la media delle temperature, mentre agosto poi non è stato questo granché vero. Però, certo, arrivare sesti in una classifica di 10 non è proprio il massimo, però sempre, insomma, in qualche modo, diciamo, una sua collocazione dignitosa quest'estate se l'è presa. E poi, perché possiamo dire anche che non ci sono più le mezze stagioni? Perché non è vero la disoccupazione, ecco, non ci sono più opportunità per i giovani, il posto fisso, eccetera, eccetera. Poi vi segnalerò anche una vignetta piuttosto caustica su questo, ma in realtà le opportunità ci sono se uno ha gli strumenti. Per esempio, no? Soprattutto per le giovani, ecco qui la discriminazione, no? I maschi hanno meno opportunità, le donne di più. Infatti, per esempio, come misura anticrisi, un commerciante di Tezze sul Brenta, vicino Vicenza, che cosa ha escogitato? Insomma, per dare nuove opportunità di lavoro e per combattere la crisi, un concorso di bellezza nel suo bar dedicato alle giovani aspiranti cameriere con in palio un posto di lavoro. Saranno i clienti più abituali, insomma, a premiarle, a decidere la Miss Bar, e lì questo finalmente si ha, che so, basta a volte un po' di trucco in più, no? Quel capello un po' più curato, magari insomma un paio di, come possiamo dire, di tette, di seni, ecco, che si fanno vedere, e che ecco che è l'opportunità di lavoro, eccoli a portata di mano. Quindi non è vero che le stagioni non ci sono più, le mezze stagioni, a volte invece vedete che certe opportunità si presentano. Ma come avete passato quest'estate da un punto di vista, diciamo, di attenzione ai fatti, no? Uno dice, ma passa agosto, un po' di noia, no? Le cose un po' si addormentano. Invece la politica ci ha tenuti sempre un po' così in fibrillazione. Adesso in particolare, di nuovo esplosiva questa settimana, cioè la proposta del PD a fine, alleiamoci in caso di elezioni. Cosa ne pensate di questa possibile alleanza? Vi sembra una proposta indecente? Oppure poi c'è Fini che parlerà a Mirabello domani e si aspetta con grande attesa di vedere cosa succederà in seguito a questo nel PDL. E notizia di oggi è il Presidente del Consiglio Berlusconi che dice non ci sarà più il processo breve, lo lascio perdere, basta, non farà parte dei 5 punti che proporrò alla maggioranza. Questa notizia di oggi è 800 24 00 24, quindi cominciate a riflettere su cosa avete voglia di esprimere sui fatti della settimana, e il numero verde è per voi, 800 24 00 24. Volevo anche dirvi così brevemente che è molto bello, anche molto bella questa iniziativa internazionale nei confronti di Sakineh, sapete, la donna iraniana condannata alla lapidazione. Da un momento all'altro si teme che ci sia l'esecuzione, però un po' tutti i paesi si stanno mobilitando, anche in Europa, no? Per salvarla, l'Italia, il ministro degli esteri Franco Frattini, che dice cercherò di parlare nei prossimi giorni con il ministro degli esteri iraniano, speriamo che non sia troppo tardi. Insomma, la Spagna anche si è accodata come ultima delle varie nazioni. Speriamo, insomma, di portare in porto, scusate il bisticcio di parole, anche questa missione. E però in più, a proposito, non ci sono più le mezze stagioni, un altro fatto invece di continuità che ci dice che le stagioni sono sempre quelle: in Italia continuano ad essere ammazzate donne, un femminicidio costante. Quindi salviamo Sakineh e salviamo anche possibilmente le donne italiane. Ma signore e signori, chi è il mio opinionista estemporaneo di oggi? Riccardo Iacona. Buon pomeriggio a tutti. Caro Riccardo. Riccardo, insomma, il nome mi sembra più che noto. Riccardo, forse uno, adesso lo incenso un po', uno dei pochi giornalisti rimasti a fare le troppo grandi inchieste. Sono stato un po' troppo gentile, forse devo un po' abbassare, diciamo. Ma così. Ti voglio proporre un applauso via etere fragoroso alla notizia che non ci sarà più il processo breve, no? Ah. Anche se rimane la domanda, come mai, visto che si è sciolto come neve al sole improvvisamente, come mai per 6 mesi non si è parlato d'altro? e tutta la politica, il dibattito politico italiano è rimasto inchiodato intorno alle questioni della giustizia, così come sono state impostate dal nostro Presidente del Consiglio. La trovo una notizia straordinaria, anche perché ti fa capire quanto è fragile la politica italiana. Beh, quindi Riccardo Iacona ha già buttato lì un argomento molto grosso, e quindi se avete voglia di coglierlo al volo 800 24 00 24, Riccardo Iacona è giornalista, autore e conduttore dell'Italia Impresa Diretta su Rai 3, e tra l'altro, diciamo a bassa voce, non posso fare troppa pubblicità alla concorrenza, torni domani, no? Dal 5 settembre in prima serata. Sì, no, su Rai 3. Ma facciamo un po' di pubblicità. Eccolo. Falla tu. Pubblicità Progresso la chiamerei io. L'Italia Impresa Diretta. Che torniamo in onda con la nuova edizione Impresa Diretta domani sera alle 21, con una puntata molto interessante sull'Andrangheta, importante anche perché ti fa capire che l'Andrangheta non è un problema locale, ma è un problema nazionale che rischia di inquinare veramente l'Italia intera. E come un cancro, anche a Milano si è scoperto ultimamente che c'è molta, infatti, già, quasi un terzo del racconto non è in Calabria ma è a Milano, provincia, in Lombardia. E la trasmissione di Riccardo è diventata anche un libro, anzi io direi, non so se Riccardo dimmi di sì, no? Che in anteprima internazionale qui a Non ci sono più le mezze stagioni, perché non è ancora uscito, e quindi non è che andate tutti a fare la fila in libreria, voglio il libro di Riccardo Iacona oggi, no, perché esce il 9 settembre, giusto? Giusto, Chiare Lettere, si chiama L'Italia Impresa Diretta. Sì, Chiare Lettere, l'editore, L'Italia Impresa Diretta. Paese abbandonato dalla politica, il sottotitolo, un po' pretenzioso, ma diciamo è quello che sento io, è quello che dimostro nel libro, è quello che ho visto con i miei occhi, e per questo anche l'ho scritto il libro. E qui sono un po' raccolte in parte, no? Tutte le tue inchieste, sono una parte, perché sennò non ci vuole qualche enciclopedia. Che dici, Riccardo? Sì, cioè il punto è questo, chiaramente io negli ultimi 2 anni ho avuto un privilegio enorme, perché non ho fatto altro che viaggiare il paese avanti e indietro e intorno a questioni che sono questioni fondamentali per il nostro futuro, cioè la politica sull'immigrazione, le questioni che riguardano l'attacco alla giustizia da parte della politica, il modello, l'Aquila, che è un modello purtroppo che è stato poi esportato in tanti altri campi, la formazione, la scuola, la privatizzazione dell'acqua, solo che diciamo il libro mi consente di capire qualcosa di più, di mettere in relazione tutte le debacle della politica su questi argomenti, no? E per questo ho pensato che fosse utile farlo. Ecco. A me è piaciuta molto, devo dirti, Riccardo, mi era capitato di vederlo, non so se l'anno scorso o 2 anni fa, quando è stato, quando era un po' più tardi il tuo programma in serata, un'inchiesta su appunto le donne uccise in Italia, mi sembra che fosse una cosa del genere, l'ho trovato estremamente interessante. In prima serata d'estate. Sì, sì. L'abbiamo fatta solo un'estate, un'estate, quella puntata l'abbiamo chiamata Apartheid, non a caso, perché questo è quello che succede in Italia, e siamo talmente affezionati all'argomento che in questa nuova serie presenteremo una puntata intera in prima serata dedicata proprio alla discriminazione di genere, detto semplicemente al fatto che le donne in Italia non contano niente o contano pochissimo, no? Con un paragone in Norvegia che è struggente ma anche doloroso, perché capisci che la cosa differenza stiamo perdendo abissale. Noi tenendo fuori dalla produzione il 50% della passione e dell'intelligenza delle donne in Italia. Riccardo, per questo ti ringrazio, avevo voglia di farti proprio lanciarti lì un suggerimento, anche se immagino che l'abbiate già impostate le puntate, e mi fa piacere scoprire in questo momento alle 14:09 che tu l'hai già messa, insomma. Si chiamerà Senza Donne, perché questa purtroppo è l'Italia, un paese senza donne. Senza donne, non è un paese per donne, diciamo, no? Ma neanche per famiglie, perché poi la verità è che quando si lavora sulla parità con le quote, perché è l'unico sistema, non c'è un altro, come ci insegnerà la Norvegia, poi alla fine migliorano anche la vita degli uomini e delle famiglie, certo. Perché se tu non crei un welfare per le famiglie, poi non puoi pensare che le donne possano, devo sempre fare la scelta tra la carriera e la famiglia, e questo è terribile. Riccardo, tu sei già sposato per caso? Beh, sono anche separato. Ah, sei diciamo sul sono mercato, sposato, sei sì. sul mercato sei nel caso. Sì, sì, vabbè, vediamo questa... So di che cosa sto parlando, ecco, anch'io ho una famiglia, nonostante sia separato. No, dicevo, sei sul mercato nel caso qualcuna fosse interessata. No, non sono sul mercato. No, non sei sul mercato. Vabbè, quindi adesso io direi, mentre le ascoltatrici e gli ascoltatori ricordo il numero verde per i loro commenti sui tanti fatti della settimana, e poi torneremo, insomma, un po' inevitabilmente sulla politica in senso stretto, ma le notizie sono moltissime, potete scegliere sempre con grandissima libertà, 800 24 00 24, ma sempre per spirito estremamente democratico di questa mia trasmissione diamo anche un punto di vista extraplanetario. Riflessioni da Marte. E da Marte, lo sapete, è sempre molto stimolante, no? Guardare la Terra e il suo folle turbinare. Nella penisola italica, per esempio, si è riaperta la stagione della caccia e riprende quindi quella soave melodia delle doppiette. e si è ripreso a sparare anche in politica, naturalmente con le parole che avevate capito, insomma, così giusto delle piccole fisiologiche schermaglie. E che sarà mai, ma la vera notizia bomba, signore e signori, è un'altra. A furia di ammazzare donne, sport assiduamente praticato, come sapete, nell'Italica Penisola, si rischia, pensate, di diventare santi. Davvero, davvero. Qualcuno ricorda un certo Gianfranco Stevanin, quello che nei primi anni 90 brutalizzava con incredibile crudeltà giovani donne, poi le uccideva, poi ne faceva a pezzi i corpi e indi li seppelliva nella campagna della Bassa Veronese. Un tipo creativo, insomma, come potremmo dire. Ebbene, mentre sta scontando un ergastolo, e se non lo sconta lui, chi lo deve scontare? Per 6 delitti di questo tipo, ma gli inquirenti sospettano che le povere vittime siano decisamente molte di più. Dicevo, mentre sta scontando l'ergastolo, che geniale idea si fa venire lo Stevanin, mentre è lì all'ergastolo, colpito da folgorazione mistica, dice: voglio farmi frate. Dopo una brillantissima carriera da efferato serial killer, dunque, Stevanin vuole passare dalla cella del carcere alla cella di un convento. E chiama lo scemo, direbbero sulla Terra, no? Su Marte si direbbe altro. Ma i frati dell'ordine di Assisi fanno sapere di non avere nulla in contrario. Ma come, ci si chiede da Marte? La Chiesa vieta severamente la comunione ai divorziati, vieta la messa funebre per chi, stanco di mille sofferenze, si fa staccare i tubi e poi accoglie nel suo seno senza batter ciglio un massacratore di donne. Ma a rassicurare comunque tutti ci pensa il legale del serial killer, cioè di Stevanin, a cui sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà, occultamento e distruzione di cadavere. Cosa dice per rassicurare tutti il legale di Stevanin? Gianfranco in realtà è sempre stato religioso. Ah, allora, viene da dire, è proprio vero che non c'è più religione. Perché l'uomo prega Dio, ma preferisce Giuda. Perché l'uomo prega Dio, ma preferisce Giuda. Giuda. Ritorniamo come sempre sui piedi, con i piedi sulla terra, meglio, perché insomma, sapete, no, a volte abbiamo delle sciocchezze così da altri pianeti, però poi noi invece siamo molto più concreti, più attinenti alla realtà. 800 24 00 24, vedo già moltissime telefonate, tra cui l'Oceano da Roma, Francesco da Novara, Luisa dalla provincia di Perugia. Allora, siccome tra pochissimo, come Pietro La Corte alla parte tecnica mi conferma, con un gesto molto chiaro ed inequivocabile, c'è la viabilità. Luisa dalla provincia di Perugia, vuoi giusto dirmi qual è l'argomento della tua notizia della settimana, poi ne parliamo dopo la viabilità? L'argomento è la scuola. In questo momento il tema principale sono i precari. Sì. Potrebbe, perciò mi pare un argomento interessante. Tu sei una precaria, Luisa? No, non sono una precaria, sono un insegnante di ruolo, perciò non parlo per diretto interesse dei precari, però conosco molti precari che sono in serie difficoltà. Luisa, allora, della scuola che ovviamente, non avendo queste persone a disposizione, è e sarà in seria difficoltà. Giusto, questo comunque è un altro argomento, poi vediamo appunto un po' le ascoltatrici e gli ascoltatori come lo affrontano, come sempre con le loro libere opinioni, però è un altro argomento centrale di questa nuova stagione, insomma, che si apre la scuola, come sempre a settembre, insomma, si torna a parlarne naturalmente. Ci stavi parlando, Luisa, di un argomento molto, molto importante, molto delicato, dei precari della scuola, pur non essendo, detto tu, precaria, ma di ruolo. Ripeto, sono un insegnante di ruolo e dovendo parlare di scuola l'argomento precari è uno, ma gli argomenti sarebbero poi tantissimi. Riguardo ai precari, io vorrei, a parte che sono contentissima che sia Iaron sia lì presente, infatti è lui che mi ha in un certo senso spinto a prendere la parola. Volevo dire che appunto pare che questi precari siano solo persone che pretendono un posto di lavoro, invece io vorrei ribadire che sì, certamente quello è un problema, però prima di tutti ho visto, no, il precario quello che di Palermo che ha fatto anche lo sciopero della fame e mi pare che lui stesso ha detto, dice: io sono un pizzaiolo, cioè so fare la pizza, dice, tornerò a fare la pizza. Il problema è la situazione della scuola, dove appunto questi precari erano e lavoravano e hanno lavorato per tantissimi anni. Sicuramente alcuni di questi verrà offerto di nuovo un posto di lavoro, però è la situazione proprio di precariato generale della scuola che è la difficoltà grossa. E perciò è un problema, Luisa, io direi che oltre a essere prima di tutto un problema occupazionale, no, per queste persone, forse anche lo diventa per gli studenti per quanto riguarda la continuità didattica, no, alla fine, o no? Uno fra tutti, ma non solo. Il problema è che qui, diminuendo il personale, diminuendo gli insegnanti, avremo classi sempre più numerose. È proprio logico. Leggevo 35 alunni per classe oggi, ecco, mi pare. Allora, volete dire qual è la qualità della scuola in classi con 35 alunni? Io insegno nella scuola primaria e ancora non siamo a questi livelli e non sarà possibile arrivarci perché cioè già con 25, 26, fino a 29 bambini è già un problema. Però certamente ne arriveremo a 35. Però certo, io mi ricordo che io ho 50 anni, eravamo 33 nella mia classe di scuola elementare, ma sicuramente non voglio tornare a quel tipo di scuola. Purtroppo pare che ci sarà un'involuzione della quale, ma non lo so, spero che ne vedremo. Luisa, delle belle o delle brutte. Luisa, visto che ha preso tanto Iacona, io glielo girerei a lui questo argomento. Tra l'altro, Riccardo, secondo te la Gelmini, la ministra dell'istruzione, diceva ieri, ma insomma io mi sono ereditata un sacco, migliaia di precari, e quindi come faccio a sistemarli tutti? Cioè è un problema cronico di anni della scuola, è un problema secondo te di questo governo? Cioè, come lo imposta la Gelmini, però non è vero, noi l'abbiamo dimostrato, cioè abbiamo fatto due puntate, 4 ore, in prima serata, in cui abbiamo fatto vedere i tagli effettivi che ci sono, che c'erano già adesso, l'abbiamo fatto diciamo al primo anno, poi c'è stato il secondo, e adesso siamo al secondo, stiamo per entrare nel terzo perché i tagli sono distribuiti in 3 anni. E abbiamo fatto vedere che l'esubero corrisponde anche a una diminuzione delle prestazioni della scuola. Quindi non è che tu ti trovi questi centinaia, queste decine di migliaia di precari e non sai come, diciamo che finora non hanno fatto niente, hanno mangiato il pane a tradimento, stavano in un sistema scolastico che prevedeva il loro utilizzo, no? Quindi a prescindere dal fatto che poi ci volevano molti anni per diventare in ruolo, questa è un'altra questione, però comunque quelle persone non trovano posto di lavoro. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere questi precari del sud che andavano avanti e indietro come pazzi, con le valigie, i bambini al seguito, al seno, negli uffici del provveditorato del nord, nella speranza di acchiappare 1 mese, 2 mesi per non uscire dalla lista, perché poi il dramma è che se esci dalla lista esci dal lavoro. Ma l'Italia, che ha una crisi economica e occupazionale di questo tipo, si può permettere che lo Stato lasci per strada 10.000 persone? Cioè questa è la domanda che bisogna farsi. No, è possibile che un ministro alla mobilitazione generale che sta scattando in tutta Italia risponda in questo modo, diciamo, un po' così burocratico e anche, diciamo, poco di sostanza? Cosa faresti tu, Riccardo? Mi preoccupo perché questa scuola così distrutta non ci consente di uscire dalla crisi, questo è il punto, no? Perché se non investi in formazione, questa è l'unica strada che abbiamo noi sentendo, se aveste acceso in questo momento il mio opinionista estemporaneo di oggi, Riccardo Iacona, giornalista, autore, conduttore di Rai 3. Riccardo, però quello che ti volevo chiedere, no? Diciamo, le soluzioni poi sono sempre un po' difficili, tu che proposte faresti? A investire sulla scuola, siccome diciamo questo è il punto più basso di un processo che è cominciato 10-15 anni fa. Progressivamente, ogni volta la scuola è l'ultima delle priorità, l'università è l'ultima delle priorità, la ricerca non ne parliamo, no? Quindi ci vorrebbe un patto fra gli italiani e i nostri governanti che dicesse: guardate, queste sono le 3-4 cose importanti intorno alle quali dobbiamo stringere la cinghia. Tutti la stringerebbero. Sentiamo, no? Chiaro, se invece ogni volta, diciamo, le grandi questioni che ci riguardano non vengono neanche affrontate perché non te le puoi prendere in campagna elettorale, perché poi questa è la verità, allora rimane una politica di cortissimo respiro. Passiamo a Luciano da Roma, sempre al numero verde 800 24 00 24. Luciano, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. No, io volevo dire velocemente una mia considerazione rispetto alla notizia di qualche ora fa, secondo cui il presidente Berlusconi rinuncerebbe al processo breve. Sì. Guardi, io mi ricollego a quello che diceva lei prima con riferimento a Stevanin, no, quando ha fatto quella battuta. La marziana. Non c'è più, la marziana. Sì, non c'è più religione. Perché se questo è vero, allora il presidente Berlusconi dovrebbe spiegare come mai, no, questo problema, insieme al problema delle intercettazioni, è stato sul tavolo, nell'agenda, sul tavolo della politica, dell'agenda politica, per circa un anno, ha bloccato l'attività parlamentare, ha lacerato una maggioranza, ha lacerato rapporti anche personali, no? Sì. Lei ha parlato nell'introduzione di quello che succederà probabilmente domani, c'è molta attesa a Mirabello per le cose che dirà Fini. Voglio dire, c'è un intero, non voglio esagerare, ma c'è il paese, quello della politica, no? Che si sta interrogando da settimane, da mesi, se si va alle elezioni oppure no, se è opportuno oppure no. No? Vi sono forti richiami del Presidente della Repubblica al riguardo, eccetera, no? Adesso scopriamo che il processo breve non interessa più il Presidente. Io direi una cosa, ricollegandomi anche a quello che diceva il bravissimo giornalista che apprezzo molto e ammiro molto, Riccardo Iacona, no? Sì. Guardi, io vivo a Roma da molti anni. Di cosa ti occupi, se posso chiedertelo, Luciano? Guardi, io faccio il libero professionista. Però purtroppo da qualche anno io faccio il sindaco del mio paese in Calabria. Purtroppo, direi che è una bella ruolo, ecco, insomma, una grande responsabilità. Posso assicurare che lavorare e fare politica, io non lo faccio il politico di professione, è stata una sorta di chiamata di servizio, no? Nel mio paese natio, che ha quasi 4.000 abitanti. Ma lo vogliamo dire il nome del tuo paese natio, Luciano? Il mio paese si chiama San Lorenzo del Vallo, sì, e per aver praticato, e lo dico, e io sono stato eletto come centrodestra, guardate, ma adesso io questa etichetta non mi appartiene più, perché io faccio soltanto il sindaco, faccio un lavoro istituzionale nell'interesse dei miei cittadini, perché fare politica in Calabria è difficile, fare politica in Italia mi rendo conto che è molto difficile, visto e considerando che c'è poca serietà, se ci stiamo accapigliando, la gente si accapiglia su queste questioni, prima le intercettazioni, adesso il processo breve, adesso questo, il presidente Berlusconi poi se ne esce fuori, cioè, non ci interessa più perché non è una priorità per l'Italia, ma voglio dire, i cittadini meritano anche rispetto, e allora tutto questo tempo perso per parlare di queste cose non sarebbe stato meglio utilizzarlo per affrontare i problemi della gente? Guardi, io ogni giorno nel mio municipio ricevo decine e decine di persone che hanno problemi di vita, di esistenza, quei problemi, diciamo, che possono essere anche banali, ma adesso con l'apertura dell'anno scolastico ci sono intere famiglie che vengono in municipio perché vogliono l'aiuto per l'acquisto dei libri, perché c'è disoccupazione, sono disoccupati, sono stati licenziati. Allora chi dà risposte a queste persone quando abbiamo un governo latitante da questo punto di vista, che ha tagliato i fondi alle regioni e automaticamente ha tagliato i fondi ai comuni, e i comuni sono tenuti a dare delle risposte sul piano dell'assistenza, dei servizi sociali? Quando parlo di assistenza non parlo di assistenzialismo, ma parlo di risposte in termini di servizi sociali di cui il comune è tenuto per legge, come trasporto scolastico, mensa, eccetera, eccetera, asilo nido, eccetera, eccetera. No? Luciano. Allora voglio dire, vogliamo affrontare questi problemi, perché non si ha il coraggio di porre con forza questi problemi e di gridare che la politica deve affrontare questi problemi e deve dare queste risposte. E voglio dire al Presidente Berlusconi, se mi ascolta, caro Presidente, lei mi ha deluso, io sono stato uno dei primi ad aderire, così come tanti cittadini, già nel 93-94 al movimento che lei ha fondato, ma io sono profondamente deluso perché tutte le cose che lei si era impegnato a fare e realizzare, no, in Italia, io non le ho viste. Se lei mi consente, le racconto soltanto un episodio personale. Sì, secondo me, a parte, volevo dirti, Luciano, che sicuramente Berlusconi è in ascolto di Non ci sono più le mezze stagioni. Secondo me è proprio uno dei principali fan. Guardi, io le posso dire questo. Questa modernizzazione dell'Italia dov'è? questa sburocratizzazione, questa semplificazione amministrativa dov'è? Io lo vivo dal di dentro come sindaco, no? Che per fare qualsiasi cosa bisogna fare 50 kg di carte bollate, no? Ma le racconto una cosa mia personale. Io ho un procedimento amministrativo che riguarda il riconoscimento di un mio diritto, riconosciuto per legge, riconosciuto come diritto. Questa pratica giace presso il Ministero dello Sviluppo Economico da un anno e mezzo, nonostante le diffide per di legge. Arriverà il ministro nei prossimi giorni dello sviluppo economico, hai sentito ieri Luciano? Sì, ma guardi, lasciamo perdere, perché guardi, le ripeto, io sono uno di quegli italiani profondamente delusi dal presidente Berlusconi. Luciano, e questo è stato chiarissimo, io ti ringrazio di aver chiamato, ma soprattutto, al di là, qualcuno condividerà, qualcuno appassionato questo sfogo di un amministratore locale che sembra insomma comunque molto attaccato alla sua terra e alla sua gente. In questo minuto e mezzo che manca prima della prossima pausa, Riccardo Iacona, vuoi commentare questo sfogo di Luciano? Lo scollamento tra quello che fa la sindaco politica, di San Lorenzo del Vallo, le agende del paese, che poi alla fine è anche sempre l'oggetto dello scontro tra politici e giornalisti, perché i giornalisti magari vogliono imporre all'attenzione del pubblico altre priorità, come quelle dette dal Signore, la crisi economica naturalmente. Vorrei però ricordare a tutti che la giustizia è ancora una priorità, anche se il processo breve non è più una priorità del Paese, giustamente, meno male, no? Però la giustizia, una riforma della giustizia, i mezzi perché la giustizia funzioni, quelli vanno messi in campo, no? Anche questo che fa più rabbia, è stato perso un anno per parlare male di una cosa di cui invece bisognava parlare. Adesso c'è la pausa, ma Francesco da Novara, sempre il numero verde per voi ascoltatrici e ascoltatori per commentare i fatti della settimana, che è 800 24 00 24. Francesco, prima di lasciarci tra pochi secondi e riprendere tra pochi altri, qual è la tua notizia, Francesco? La mia notizia è che vedo che l'Italia, proprio lo dirò anche a proposito del processo breve, tutti quanti sono capaci di fare le analisi. Quando poi si tratta di rimboccarsi le mani per trovare soluzioni, nessuno è capace. Per esempio Iacona, che ha lavorato molto con Santoro, io Santoro l'ho conosciuto da ragazzo quando eravamo al liceo, ma che lui probabilmente non si ricorderà. Aveva buoni voti Santoro? Era uno che aveva personalità eccetera, però bisogna ricordare che nel 70 la scuola è stata sfasciata, il debito pubblico non l'ha fatto il governo Berlusconi, ma la cosa più grave, lei ha raccontato prima in quella bellissima inchiesta intervistando uno dei banditi della Magliana, la collega Calandra, e racconta uno spaccato, no, dove lo Stato era, non dico colluso, ma è venuto fuori uno spaccato che magari si già intuiva di questi rapporti tra la politica e il malaffare, e la Camorra, l'Andrangheta e i banditi. Adesso il problema è come se tutto fosse venuto fuori adesso, ma poi sul processo breve vorrei dire, io sono convinto che Berlusconi ci sta zuppando, come si dice, ma è possibile che in Italia nessuno si renda conto che il problema della giustizia non è solo un problema di fondi? Guardi, io ho lavorato anche in banca hanno tagliato 200.000 bancari e le banche sono diventate più efficienti. La prima cosa da fare è ottimizzare le risorse che si hanno. Guardi che dipende dai presidenti dei tribunali, se dei presidenti dei tribunali coi baffi dove vanno riescono a ottimizzare hanno tutti le risorse. Tutti i baffi, quelli capaci, poi in altri tribunali, in altri uffici giudiziari non si ottiene tanto. La cosa fondamentale è che comunque nessuno si preoccupa che in Italia si parli di processo breve, un processo che dura 10 anni. Nessuno si preoccupa, per esempio, che della costante e persistente flagrante violazione del segreto istruttorio. Nessuno se ne frega di tutti i processi, di tutte le inchieste che poi finiscono nella sabbia con delle assoluzioni dopo uno che è stato 10 anni, 12 anni, 15 anni sulla graticola, bruciato da questa situazione di ambascia che ti accompagna in tutto questo processo. Questo è vero, ma dimmi una cosa, Francesco. C'era nei giorni scorsi, non mi ricordo chi fosse, forse qualcuno del PD, non mi ricordo, che diceva, ma insomma, questa storia del processo breve, quindi dare un termine definitivo e preciso a un processo, è come dire il treno ad alta velocità deve arrivare in 3 ore là, ma a un certo punto, se si vede che non si arriva, lo fermiamo a metà strada in piena campagna, i viaggiatori scenderanno. Secondo me le soluzioni sono due. Prima, innanzitutto, fare come fanno quando fanno le ristrutturazioni, andare nei tribunali e fare l'analisi dei processi operativi, non quelli giudiziari, processo operativo. Si dice come deve essere organizzato un tribunale, e i tribunali d'Italia quanti sono? Devono funzionare tutti allo stesso modo. Poi, quando si è fatta l'analisi dei processi, si sono migliorati, poi andiamo a investire. Ma il problema fondamentale, il processo breve è un'aberrazione. La cosa fondamentale che dovrebbe essere alleggerita la procedura è, come succede negli Stati Uniti, si va davanti a un grand jury, parità tra accusa e difesa, il grand jury stabilisce se gli elementi di accusa sono validi per poter andare avanti. Ma ci vuole anche un principio di uguaglianza delle armi. Allora, l'accusa e la difesa devono essere sullo stesso piano, i giudici devono poter lavorare, devono avere i mezzi per poter lavorare, andare nei tribunali, sedersi, trovare tutte le strutture pronte, ma chi deve far andare la macchina deve essere anche capace di organizzarla. Allora, oggi è chiaro che tutti si scagliano contro il processo breve, eccetera, che ripeto è un'aberrazione, ma di tutti, soprattutto a sinistra, che negli anni famosi 70 gridavano contro la magistratura, eccetera, che il fatto che un processo civile possa durare addirittura 50 anni, io ho un caso a cui, di cui posso... No, ma infatti di quello siamo consapevoli, Francesco, è che veramente bisogna poi trovare le soluzioni più opportune. Comunque abbiamo capito che il processo breve è stato messo da parte. Francesco, ti ringrazio molto. Stavo guardando una notizia, un flash d'agenzia che adesso riportano anche i quotidiani online, visto che siamo tassativamente in diretta, ve lo dico. Dalla Grecia un atterraggio d'emergenza per un aereo slovacco che era partito da Verona. Il motore sinistro era in fiamme, c'è stata un'esplosione del motore. Nessuno, comunque, dei 169 passeggeri a bordo e dei 7 membri dell'equipaggio è rimasto ferito fortunatamente, evacuati tutti con gli scivoli. Era un volo dell'Air Explorer diretto all'isola di Kos in Grecia. Prima di passare ai molti altri ascoltatori, c'è Tino da Milano, c'è Gianni da Bergamo e gli altri, volevo chiedere a Riccardo Iacona. Riccardo, ti sottopongo due notizie che riportano, uno con una vignetta, uno con un editoriale, due giornali opposti come Il Giornale e Il Manifesto. Allora, su Il Manifesto c'è, sai che il Papa ha detto in questi giorni, giovani, il posto fisso non fa la felicità. Allora ci ha pensato Vauro, che sappiamo è un vignettista molto al vetriolo. C'è la vignetta sulla prima pagina del Manifesto, c'è il Papa con i piedi sopra la scrivania, le mani così dietro la testa, un po' in posizione distensiva, diciamo, e sopra il titolo è «Il Papa ai giovani dice il posto fisso non è tutto», e il Papa, che si crogiola in questa situazione, dice «Il mio comunque non è niente male». Ecco, questo è Vauro. Poi invece sul Giornale c'è l'editoriale di Marcello Veneziani che definisce Fini il cavallo di Troia. E dice che tirerà la corda ma non la spezzerà, resterà in casa ma farà il cavallo di Troia senza offesa per nessuno, non fonderà il partito farfalla di cui si parlava ma il partito tarma che corrode la mobilia dall'interno. Cosa vuoi commentare? Il posto fisso del Papa oppure il... Ma voglio dire, le vignette sono belle tutte, no? Cioè... Fanno sempre, strappano il sorriso, che si andano a parlare. Sono sempre andare un po' dietro la notizia, no? Anche quella, diciamo, del giornale che al vetriolo, diciamo, quella del Papa è diciamo più condivisibile da un certo punto di vista, perché però è interessante per questo fatto, perché voglio dire, il precariato è un tema sul quale qualcosa dobbiamo fare qui in Italia, o lo rendiamo più ricco, insomma, in modo che così sia convenga di più, oppure stiamo rischiando di tagliare le arti a intere generazioni reali, a intere generazioni per di mettere su vita, no? Però c'è anche nell'altra vignetta un elemento di verità, perché c'è anche un elemento tattico nell'operazione di Fini, il quale non vuole uscire dalla maggioranza, non vuole uscire dal campo in cui è stato eletto, e quindi deve trovare anche il modo di starci dentro imponendo il suo punto di vista. Secondo te che farà domani a Mirabello? Dirà fondo un nuovo partito? No, o rimarrà? Non lo dirà, così lo dicono tutti, no? Cioè come quelli che sono più bravi di me, che hanno le fonti, che questo mestiere lo fanno, perché poi anche quello è un mestiere, no? Stare lì a ascoltare, essere capire, preveggenti, no? Della politica, delle mosse Bravo, strategiche, è un po' come i maghi con la pasta di vetro, devo dire. No, ma però mi aspetto che su alcune, io di questa questione di Fini apprezzo moltissimo il coraggio di segnare dei limiti oltre i quali dico che questa non è più la mia politica, ecco, cioè la norma transitoria non è la mia politica, il rispetto della legalità non è la mia politica, non è su questo terreno qui che dobbiamo cercare il consenso. Questo penso che in un paese malato di illegalità è qualcosa di prezioso, a prescindere da chi lo Riccardo, chi ci gioca la carriera politica. Però ti volevo chiedere anche cosa ne pensi della proposta della Bindi, presidente del PD, no? Che ha detto a Fini, ma insomma in caso andassimo ad elezioni anticipate, un'alleanza tra PD e Fini non sarebbe poi così sconveniente. Sembra più una buttata. No? Cioè, non mi sembra che sia stata ben accolta neanche all'interno del PD. Sì. Allora sentiamo Tino da Milano, al numero verde 800 24 00 24. A te Tino. Sì, buona serata. Buona serata a te, buona giornata. Pronto? Sì. Ecco, io volevo parlare, così non perdiamo tanto tempo, no? Ho qui sott'occhi il giornale Corriere della Sera di martedì, a pagina 9, in primo piano. Allora, la fabbrica delle cattedre al sud con i furbetti del sostegnino. In 15 anni i docenti per i ragazzi con difficoltà sono triplicati. E dice i numeri, 45.098 sono assunti a tempo indeterminato. 41.479 sono a tempo determinato, poi ce ne sono altri 2.780 presenze annuali. Tutti quelli di sostegno e basta questi sono? Sì, solo i sostegni. Sì, nel 2007-2008 erano i docenti di sostegno con contratto annuale, c'è anche questi, 2.780. In pratica arriviamo a 90.000 persone. Ecco, il numero dei bambini handicappati che sono in gran parte al sud, chissà perché, sono 181.000, vuol dire che per ogni due ragazzi c'è una maestra di sostegno. Allora ha proprio torto la Gelmini? Non capisce niente? Ma saranno solo insegnanti di sostegno quelli che sono precari secondo te? Sì, no. Lei dice i precari? Allora i precari, le dico subito, sono 41.479, sì, giusto, mentre a tempo 45.098 a tempo indeterminato. Ma quelli di sostegno? I docenti di sostegno assunti con contratto fisso nel 2007-2008, i 41.479 sono a termine attività didattiche, gli insegnanti di sostegno assunti a tempo determinato per lo stesso anno, cioè sono quelli che probabilmente quando chiudono le scuole se ne vanno a casa per quei quattro mesi lì di intervallo delle vacanze, insomma. Poi ce ne sono altri 2.780 presenze annuali, nel 2007-2008 erano i docenti di sostegno con contratto annuale, quindi insomma stai dicendo Tino che insomma è un po' gonfiato questo, cioè ci sono un po' troppi sostegni, un po' troppo. Gian Antonio Stella che scrive, sì, documentato questo. Come no, qui. E 181.000 gli alunni disabili nell'anno scolastico 2009-2010, secondo il dossier. C'è una grossa percentuale, il sud ha il 27% della popolazione e ha il 40-45%, adesso non mi faccia vedere qui, se no perdo tempo, no? No, va bene Tino, io... Infatti lo dice, il 52% dei posti... C'è, 52%? Come? No, 52% dicevi? Ecco. Che non riesco allora, più a prendere punti. Sì. Molto di più proprio al sud e nelle isole che nel resto del paese. Chiaro, Tino. Allora vorrei chiedere, grazie Tino da Milano, Riccardo Iacona secondo te può essere, comunque Gian Antonio Stella di solito è piuttosto documentato, ma la chiave voleva essere questa, che forse in certi ambiti sono precari e pochi e poco sostenuti e curati, poi dall'altra magari si assumono un po' troppo in certi ambiti come quello del sostegno, secondo te è possibile Riccardo? Visto che hai fatto due inchieste. Se ho capito bene sono due insegnanti per ogni... un insegnante sostegno per ogni due alunni in difficoltà. Sì. Ma da quello che so io il sostegno si chiede anche per una persona, cioè non è che e poi dipende anche dal tipo di disabilità, il problema dei tagli agli insegnanti di sostegno che abbiamo girato l'anno scorso, e le famiglie erano disperate, abbiamo fatto delle interviste veramente da strappare il cuore, erano disperate per questo motivo, perché voglio dire, avere un ragazzo così e sapere che sta col bidello e non sta con l'insegnante di sostegno, abbiamo trovato situazioni di questo genere. L'insegnante di sostegno è una forma di civiltà, è una delle ancora delle poche cose che ci fa stare in alto nelle graduatorie internazionali quando si parla del sistema scolastico pubblico nazionale. Non comincerei da lì a tagliare io, sinceramente. C'è sempre Riccardo Iacona oggi come mio opinionista estemporaneo, naturalmente tutta l'ora a commentare i fatti della settimana insieme a voi, insieme a me, Roberta Giordano. Il numero verde è 800 24 00 24. Abbiamo toccato molti argomenti finora, ma soprattutto abbiamo visto la politica e la scuola. C'è Gianni da Bergamo. Gianni, siccome tra poco ho un appuntamento nuovo che inauguro da questa puntata, ti chiedo il tema della tua notizia della settimana e poi dopo ne riparliamo in seguito. Gianni. Sì, buongiorno. Buongiorno a te intanto. Niente, io volevo dire due parole in merito alla scuola. Ecco, allora la scuola è il tuo argomento, giusto? Sì, sì, la Gianni, scuola. Abbi ancora un po' di pazienza perché adesso vi lancio questo nuovo appuntamento. Prego, Pietro Lacorte. Sì. E Stefano Andreoli, detto Spinoza, adesso si dà aria da filosofo, ma Spinoza.it è in realtà il blog che lui cura, ha fondato e cura insieme ad Alessandro Bonino, il blog satirico più seguito della rete, così dice lui. Poi non so, Stefano, se è proprio così, sì, è confermato. Dati alla mano, ciao Stefano. Allora, con Stefano voglio fare questo ogni settimana, ogni sabato. Qui non ci sono più le mezze stagioni. Stefano farà un po' il fotografo, proprio di quelle istantanee così, splash, che fa una frase con la sua capacità satirica e fulminante. Il senso della settimana, delle notizie della settimana, a te, Stefano. Cerchiamo appunto di raccontare un po' questa settimana. Opinionismo molto dal basso, in questo momento mi trovo dentro un matrimonio e sono uscito a metà del primo piatto, quindi questa cosa ti costerà cara. Così ti mantieni leggero, via. In ogni modo cerchiamo appunto di addolcire e abbassare un po' i toni, alleggerire, risalutiamo anche Riccardo Iacono, al quale non può che andare la massima ammirazione, e cominciamo a raccontare questa settimana. Uno dei temi principali dei telegiornali di questi giorni è il Festival di Venezia. Festival di Venezia, tutti in piedi per il presidente Napolitano, e buona educazione del resto cedere il posto agli anziani. E il film Black Swan del regista Aronofsky sul tema della donna divisa in due, un film piuttosto snobbato. Un po' come Stefanin, sì, che la divideva in più pezzi, però. Esatto, un po' un film snobbato dalla critica, del resto Silvan ha già detto tutto sull'argomento. A Venezia assente il ministro della cultura Bondi, quindi niente di nuovo, insomma. Nulla di nuovo. Veniamo a altre notizie. Processo breve, abbiamo parlato sui tempi della giustizia. Berlusconi scrive una lettera all'Unione Europea. L'Unione Europea risponde: che strano odorano. Ecco, questa deve essere una battuta sul tema. La preoccupazione è che alcuni. Stefano, ma tu te ne vai al matrimonio quando mi devi raccontare la settimana? Non si sente più niente. Stefano, pronto? Che cos'è? Sentendo. Mi senti? Sì, sì, è la Bonarda che ti. Prego. No, Lambrusco, qui siamo in terra di Lambrusco. Ah, Lambrusco, certo. La preoccupazione di Berlusconi sul processo breve è che alcuni processi rischiano di concludersi, e questo chiaramente a lui non piace. Poi parliamo di Lega, toccate quota e ci muoviamo a milioni, ha dichiarato Bossi nel suo ricatto settimanale, mentre ha tenuto banco anche la visita di Gheddafi, che tutti noi abbiamo potuto apprezzare, lo show di Gheddafi. L'Italia ricambierà con una tournée degli Orfei in Libia. Gheddafi è arrivato in Italia con 30 cavalli, aveva frainteso probabilmente una telefonata di Dell'Utri. Gheddafi non prenda l'Italia per Disneyland, ha dichiarato un furibondo Paperoga. Ecco, poi vorrei chiudere, mi senti perché non sento. Sì, ora ti sento, sono in religioso silenzio. Prego. Non sento risposta, vorrei parlare anche del PD, appunto questa offerta del PD ai finiani. Sì. Ma ai finiani che restano nel PDL, Berlusconi promette un posto nelle liste elettorali e 500 SMS gratis. Ecco questa. Qui è la solita concorrenza delle telecomunicazioni. Molto vantaggiosa. Il PD dal canto suo lancia questa famosa mobilitazione da porta. I militanti PD tireranno casa in casa per convincere gli elettori, ma anche un po' per abituarsi al loro prossimo lavoro, perché non tira una bellissima aria. Uno si ricicla come può. Stefano, chiudiamo con l'ultima battuta. Se il PD vi bussa alla porta, non servirà rispondere non voglio niente, perché è proprio quello che loro hanno da offrire, quindi assolutamente la loro tattica da questo punto di vista è vincente. Grazie. Direi Stefano Andreotti, ho detto tutto. Grazie Spiso, buon matrimonio, non so se il tuo, non ho capito, ma comunque no, non è il mio, auguri. Ancora. Ciao Stefano, un bacio Roberta, buona giornata. Gianni da Bergamo, rieccoci allora, Gianni. Sì, eccomi qua. Sì. Quindi dicevi la scuola, il tuo argomento. Dicevo la scuola, diciamo che io ho avuto un po' di esperienze con la scuola, perché ho mandato i figli a scuola, ho un'azienda e quindi seleziono abbastanza frequentemente dei ragazzi che sono da scuola per quando vanno a cercare lavoro. Però voglio dire, sono anni che questa scuola produce degli alunni, dei diplomati con una scarsissima formazione. Sono anni che è così, e sono anche anni che i docenti non sono proprio degli educatori per i ragazzi, nel senso che almeno io ho visto diverse volte che gli educatori cercavano di porsi nei confronti dei ragazzi come degli amici, no? Come degli amiconi, quindi magari se c'era da fumare lo spinello erano i primi che ci andavano. Degli amici, ma non degli amici in bene, degli amici quelli più diciamo all'avanguardia in cose così interessanti, in cose divertenti. Quindi questo sicuramente non è servito alla scuola. La scuola sono anni che sta funzionando male, sta producendo dei cattivi diplomati. Era ora che venisse riformata, e non è che se la scuola fino ad oggi ha funzionato male bisogna sempre andare a cercare la colpa è di qualcun altro, quelli che non hanno fatto i finanziamenti, quelli che non c'erano, quelli che non davano, i politici. Un po' sarà anche colpa di quelli che ci sono dentro, io dico, no? Dici degli insegnanti, quegli insegnanti stessi, secondo te? Diciamo della struttura scolastica, parlo degli insegnanti, parlo delle persone, insomma, che fanno parte dell'organismo, della struttura scolastica, e che in primis avrebbero dovuto loro muoversi per poter fare in modo che la scuola rimanesse su ottimi livelli. Gianni, ti ringrazio da Bergamo, e adesso, prima del nostro appuntamento, anche questo, ritorna tra pochissimo con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Però Francesco da Roma, proprio brevemente, Francesco, perdonami, perché più si arriva verso la fine più bisogna essere sintetici. Francesco. Buongiorno. Buongiorno a te, posso Francesco. Dire soltanto una frase telegrafica che sì. Stamattina sì. Viaggiando in macchina ho ascoltato la lettura, una rassegna stampa di una radio privata, sì. Hanno letto per intero, o quasi per intero, insomma, gli stralci più importanti del documento famoso del Papa che citava anche lei prima, in cui in sostanza il Papa non dice che i giovani non gliene frega niente del posto in fisso, eccetera. Diceva che non si accontentano soltanto del posto fisso, ma che ambiscono ad altri ideali più alti, cioè che vogliono l'una e l'altra cosa, che non si accontentano, che non, la vita non finisce al posto fisso. Era una... Però forse comincia dal posto fisso, io direi, a parte i valori, no? Sennò uno non comincia, progetta. Ma non finisce, no? Perché io, come lei, del resto, io sono un giornalista come lei, lavoro, ma la mia vita non si esaurisce al giornale, per fortuna. No, per fortuna, c'è tanta ricchezza di rapporti fuori. Però bisogna pure sopravvivere, non un po'. No, sì, ma non era una come posso dire, cioè il fatto che tu dica, che lei dica, scusi. No, andiamoci del tu. Benissimo, il fatto che tu dica la mia vita non finisce col lavoro, e mica sta dicendo che sputi nel piatto dove mangi, no, che certo. È diverso, no? Dire ha detto che noi, cioè attribuire una frase non detta è un po', diciamo, no, diciamo che i giornali titolavano, quelli che hanno un po' estrapolato, il posto fisso non è la felicità, nel senso, questo alla fine effettivamente lui ha detto, veramente non fermatevi lì perché non è l'unica cosa. Però diciamo che se ci fosse un po' un precariato un po' più aggiustato, come diceva Iacona, con stipendi migliori, con più turnover, eccetera eccetera, forse ci si troverebbe un po' meglio. Grazie Francesco da Roma, e il nostro appuntamento Valeria Della Valle, che si trova eccezionalmente a Los Angeles, quindi non sei aggiornata moltissimo sulle notizie della settimana, non le sottoporrò una parola di qui, ma mi incuriosisce in brevissimo tempo, Valeria, come sempre, la donna più intelligente, più veloce del mondo, che parole hai sentito italiane dalle parti di Los Angeles? Cioè, oltre pizza, io sento sempre pizza quando sono all'estero. Oltre pizza, oltre paparazzo, oltre la dolce vita. In realtà le parole italiane, che non solo a Los Angeles ma in tutti gli Stati Uniti vengono usate, sono molte e di lei che crescono ogni anno, io torno ogni estate e ogni estate ne trovo di nuove. Faccio solo qualche esempio, ora qui è molto più chic dire panino invece di dire sandwich. Pensa che noi diciamo sandwich qua e non diciamo panino. La parola focaccia, cucina, fornaio, l'ice cream insomma non è tanto buono perché si preferisce dire gelato, e ultima new entry, tanto per fare anch'io un po' la classifica, giocare, visto che sei l'elogista, la parola aperitivo. Aperitivo. Ora è chiaro, sono tutte parole legate come noi diciamo happy hour, una roba da marcio. Ma mi sembra importante proprio questo, no? Le parole legate al cibo sono quelle che si usano più frequentemente perché fanno parte della vita di ogni giorno. E allora mi fa piacere ricordare questo fenomeno, perché spesso, no, si usa dire in Italia che la lingua italiana è oramai prossima alla fine, al declino, cosa nella quale io non credo. Lenta scalata della nostra lingua, che poi ricordiamoci che è una delle più studiate al mondo, no? Oramai vero, è la quarta lingua più studiata al mondo, mi sembra un fatto positivo. Dimmi solo, allora, Valeria, scusa, so che poi vorrei chiudere con la morale, ti voglio chiedere, ma lì usano anche dire non ci sono più le mezze stagioni, lo dicono? Per di più anche negli Stati Uniti. Los Angeles. Valeria, mi senti? Sì, ti sento. Valeria, volevo chiederti, ma lì dicono anche non ci sono più le mezze stagioni? Tra le parole italiane. Dovrei fare un'indagine. Fai un sondaggio, indaga. Lo dirò la prossima poi settimana. Ce lo dici. Grazie Valeria Della Valle.